culo. Oh, canale 10 27075.0, canale 10 27.075.00. Attenzione, canale 5, ecco, attenzione, canale 10, c'è nessuno, uno. Ciao Walter. Mi avete riconosciuto, vabbè, ciao, giù. E allora, con l'eco, sì. Sto provando un baracchino della CTE, un frutto. Ci tiene il prezzo, vabbè. Come va la rimodulazione? Va benissimo, Walter. No, ma appunto è sempre andato bene. Il Galaxy. Mi è arrivato. È arrivato Marco. Rientro dopo, sto aspettando a lui. A dopo Giulio. D'accordo, Walter. Sì, guardate come tutto comunque, sono uguali. Appunto. C'è qualcuno qua? Ciao, Dio. Oh, non mi senti? Hola, hola. Pronto? Senti? Ciao, chi sei? Sono Chicco. Ma rispondi, sì o no? Ti sei piazzato un qualcuno scattava sopra. Pronto? Mi senti? Capo. Svegliati. Pronto? Pronto? Chi è? Sono io, tu chi sei? Ciao Ed. Ciao. Io? E tu non mi conosci? Cosa? Non mi conosci? Aspetta, ripeti? Te l'ho detto che sono. Ok. Quanti anni hai? Cosa? Quanti anni hai? Ah, 8 anni. No, non parlare quando parlo io. Devi aspettare che io smetta, se no non ti posso sentire. Ok. Se tu parli quando io sto parlando io, non ci possiamo sentire. Ho chiesto, quanti anni hai? 5, 6, 7, quanti? 8. 8? Allora vai a scuola, Vai già a scuola. Cosa stai frequentando? La terza? Sì, frequento la terza. Bravo. Vacci volentieri a scuola, Ci devi andare perché è molto ma molto importante. E tu quanti anni hai però? Quanti anni ho io? Così hai chiesto, mi hai chiesto quanti anni ho io? Sì. 70 più di te, quasi 70 più di te. No, hai detto bene, più di me, ma un po' troppo più di me, quindi... Ecco. Sono vecchio ormai. Io ho quasi 70 anni più di quanti ne hai tu. Si capisce, hai 70 anni in qualcosa e io ne ho solo 8. Parla un pochino più lontano dal microfono, perché se non si capisce più male, si capisce quello che dici. Giulio! Dimmi, Daniele, avanti. Buonasera, salutone circolare a tutti. Dammi un controllo di segnale adesso. Prova, che guardo. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, mettiti anche i binocoli. Guarda, ora. 7. Ma salito è? Sì, ieri era 6 e mezzo, adesso è 7. Ho fatto le magie. Vabbè, Daniele, il discorso è sempre quella. Anche se la sposti, l'antenna, se è quella, non è che ti puoi pretendere più di tanto. No, l'ho cambiata del tutto. Ci ho messo un arringo adesso. Vai sempre una lontana di macchina. Ciao Daniele! Buonasera! Salutoni! Questa è... vabbè, la bomba era mezzo giocattolo, è un pezzo di filo, si può dire. Questa è 6,4,80 di antenna adesso. Va bene, d'accordo, Daniele, però è messa sempre sulla posizione dove ce l'hai tu. E anche il 4,80 non è che c'è molto fuori dal palazzo, per cui non c'è spazio. Vabbè, non l'ho tirata tutta, l'ho messa lì e se la sollevo, guai, già ne ho spazio a sollevare adesso. No, riparate che l'ha migliorato un pochino, dai. Adesso vediamo, perché ho fatto la prova con Pomponio e sono 9,10 adesso. Va bene, con Pomponio sì, siete vicini, ma qua in questa zona dove sono io è un po' più distante. Magari davanti c'è anche il palazzo che ti copre verso questa parte, anzi c'è senz'altro, perché io non so dove abiti, per cui se tu ce l'hai sempre nella stessa facciata dove c'era una volta la Mantova Turbo, lì in quella facciata sei sempre. Sempre lì è messa un angolo però, perché là ci sono i fili da accendere, se no li passa in mezzo e mi crea problemi all'antenna poi. La posizione è sempre quella, Giulio, sempre quella è appena più bassa, però se voglio posso aumentare, posso sollevarla, non c'è problema, aspetta che c'è una bassa. Va bene, rispondi al telefono. Attenta al bambino di 8 anni, ci sei? Samuel, vabbè, però Daniele, sei a Santiago 3. Aspetta che Daniele sta rispondendo al telefono, adesso non può parlare al baracchino, sta rispondendo al telefono. Come ti chiami tu? Samuel. Samuel, così? Samuel, hai letto? Sì. Ah, è un bel nome, è un bel nome. Va bene. Papà come si chiama? Walter? Sì. Lo so. Lo conosco, ci conosciamo da tanti anni. Ma quando sei nato in Slovacchia, non in Italia. Ah, tu sei nato in Cecoslovacchia, così hai detto? Sì. Va bene, va bene lo stesso, non c'è problema. Va benissimo, ok. Dunque, ma adesso abiti qua, per cui va bene. Ma a scuola ti stai andando volentieri? Sì, spero di sì, perché è importante andare a scuola, che impari tantissime cose. Hai problemi? Ti sento male. Mi senti male? Non credo che data funziona molto la radio, infatti ci sono dei problemi. Ah, ho capito, non so cosa dirti. Il problema probabilmente è dal tuo baracchino, suppongo che sia così. Fatene dare uno che funziona bene a papà. Siamo nella stazione di mio padre, stiamo facendo le prove, ecco perché ti sentivo male. Non so, però sicuramente dipende dal tuo baracchino, vuol dire che non funziona molto bene. Ci sarà qualche problemino, che poi tuo padre già lo sistema. Ti sono successi degli splat. Parla un tantino più lontano dal microfono, non appoggiare la bocca al microfono, allontanati un po', perché se no non ti capisco molto bene quello che dici. Ho degli splat. Così va bene, parla da quella distanza dal microfono, non ti avvicinare troppo, perché sennò le parole non sono chiarissime. Ok. Ecco, così va bene, quella distanza va benissimo. va bene, fratellini ne hai? Sì, però adesso devo andare. Vabbè, se devi andare ti saluto allora, dai. Allora ti saluto e ci sentiamo un altro momento, un altro giorno, va bene? Sì, forse devo studiare adesso. È giusto, devi studiare, è giusto che tu lo faccia, vai a studiare che è importante. Va bene, allora ci sentiamo un altro momento, dai. Un'altra volta ci sentiamo lo stesso. Ok, ciao Samuel. Ciao. Ore. Ora. Buonasera, chiunque stia facendo male, come me penso. Infatti non ti sto riconoscendo, è come satura, satura e bassa. No, qua è successo qualcosa, non modulo e non sale, non sale la lancetta nemmeno di poco, non so cosa cavolo è successo. Cosa ho, alternata, come sono? Sì, Walter? Guarda, ora si è cambiato ora, Marco. È migliorato tantissimo, non c'è paragone. Il segnale non so... vedo anche i segnali bassi, non lo so cosa cavolo è successo qua. Vieni avanti di nuovo. Guarda un attimino, siamo entrato anche il segnale. Qui non sono, sto provando un nuovo apparato, quindi molto sicuramente non hai, non riconosci la modulazione per quello. Eia. Allora, a parte che qua era pure abbassato, cesso, che scemo. E comunque non sta andando sta radio. EIAT 9, Santiago, la radio buona, abbastanza buona. All'inizio però eri saturo, mi sembravi Walter Diaboliche, dalla voce, no? Massa e saturo, adesso un po' meno. Io qua sto scaldando la pappa. Ho acceso, non c'era nessuno comunque. Ho provato a premere, a fischiare, ma non. Non so come mi senta tu, ma non. Tutto, non sale la freccia, non so cosa è successo. Ora, ha migliorato per caso la base? Adesso sì, 9 più 10 circa, però leggermente più satura. È salito il segnale di 10 dB circa, un po' più satura, ma capibile. Ieri c'eri tu, ieri ti ascoltavo bene, no? Ma questo è un altro apparato, vedete? Sì, Marco, è un altro apparato, Adesso mi sono avvicinato un po' più al microfono, non so come va di modulazione, perché questa è un'altra radio, cioè devo dargli più amplificazione, diciamo, dai. Meglio, adesso è migliore. Non si sente nemmeno la saturazione tanto, a meno che non attacchi l'orecchio all'altro parlante, ma così è un controllo sommario, poi io non è che ci abbia l'udito da direttore d'orchestra, mi detto tra noi. D'accordo, un attimino. Giulio. Ciao, buonasera a todos, io sono arrivato adesso. Ciao Claudio, allora Tino, sei sceso di segnale, però la radio non è pulitissima, c'ha un po' di saturazione. Ho tolto tutto, ho tolto l'NBANL perché sono falsa, ma non è limpida. Claudio, come ti sembra? Sì, infatti sono entrato per quello, non è limpida, ti come mai? Cosa che ti dica, questo è quella modifica là, quindi sicuramente qualcosa nella radio, non so cosa dire, sai cosa sto utilizzando qui. La radio già è abbastanza buona, solo c'è questa leggera saturazione. Ascolta, il microfono come ce l'hai? In posizione in, impedenza quant'è? 500, 50? No, 50, 50. Ma io spingeva di più, spingeva molto di più, non poco, non molto di più, quindi la radio che all'interno ha qualche chiusura. Guarda, poi faccio entrare, mi è sembrato Giulio. Allora, stamattina quando l'abbiamo aperta, ma per carità, non ho mai visto una radio in queste condizioni. Questa vuole presa e la va, dal lucido che ha all'interno, fa fa paura. No, no, ma così non va bene, non sto modulando a circa 10-15 cm dal mic, non sto andando, non va bene, riattaccolato. Potrebbe andare, ma non potrebbe andare. Avanti Giulio, se sei tu. Chi è che voleva entrare sul 10? Boh, non lo so. Chi c'era con te, Marco? Marco? Sì, Claudio, un attimo che sto mettendo nei piatti. No, dicevo, da quel giorno che mi avevano detto che avevo una scarichetta, l'ho lasciato fare un giorno o due, e adesso lo ritrovo che non... non sale la modulazione, non vedo picchi, non... In mandatellare non vedo il picco del beep, qualcosa è successo, non lo so, scariche statiche, oppure qualcuno si è giocato sul pezzo, boh. Abbassa. Ah, quel difetto là, il 44. Sì, sì. È molto attaccato, stento attenzione per questo rottello. Un pochino, quello l'ho portato. Grazie, sì. Oh, è un colpo, metto la zia al 4.30. Mamma mia, questa radio, per carità. Riprendi, Marco? Inizialmente quando l'accendi fa così. Sì, va bene, tieni presente che l'ho appena accesa, quindi l'ho appena accesa, quindi sto andando anche con 5 watt portante fissa. No, vabbè, quello la puoi lasciare anche a 20 watt e quando l'accendi la retrovi a 20 watt, il 440 non è lo 740. Però questo difetto, boh, che fa? Un difetto che non ho mai visto. Con tutta la mia esperienza dei K, che è un difetto che non ho mai visto, mai, la prima volta che lo vedo. Di difetti non ci vedo tanti, non lo dico mai. Vabbè, cosa vuoi dire? Sono demoralizzato, deluso, più che altro. Non mi aspettavo che era così. Anche mi è sfuggito di mano quello in cui c'ero io. Sì, credimi, ti lo dico proprio senza, guarda, non mi ricordo che c'era la radio, già non l'ho provato, ma una radio spettacolare, così spettacolare che mi ero talmente affezionato, poi mi si è attaccato la buona anima di Giampaolo e l'ha girato Ed, ho levato anche l'adattatore, perché lui aveva il 140 e quindi poi così con l'adattatore ti usi anche le MC60 e così faceva, e anche lui usciva molto bene. Poi Giampaolo l'ha dato a Sandro, ha preso il gavetto, ci ha venduto la radio, ha preso tutto. Una radio così bella, ma in ordine, veramente molto bella, nuova, nuova, era di Massimiliano Archimede. Vabbè. Ma adesso aspettiamo i nuovi eventi, poi vediamo. Comunque abbiamo già dimezzato la bottiglietta. Dimezzato? Sì, va bene, fammela assaggiare, assaggiato. E ce l'ha mangiata, andate. Ma qua non arrivi dell'aria ancora, per quello io adesso già la nascondo, capito? Perché poi anche loro un crostino non avanza, no. Adesso lo nascondo e così fra un po' adesso mi organizzo, porto a Filippo e poi preparo tutto, capito? Beh certo ne prendo una delusione, perché quella radio se è a posto non ha niente da invidiare al K, te lo sto dicendo con sincerità. Però evidentemente quella radio ha qualcosa all'interno, qualcosa di chiuso, e a Fabrizio devi far vedere. Solo Fabrizio ti può dire cosa può avere quella radio e perché non sta uscendo bene. Come mai? basso. Oh, ora lo sto abbassando troppo, vero? No, solleva un po'. Ora. Va bene così. Sì, la polpetta sollevati però. Sì. Ora, adesso va bene, un po' troppo. No, adesso sì. No, allora ti ripeto, devo aprirlo, pulirlo bene, o con la triellina o con qualche detergente che si compra per poter pulire il circuito stampato. Ecco, lì te lo stai facendo, lì che l'ho visto fare a Massimiliano, perché il presidente ha fatto molto molto bene. C'è un temerino chiaramente manuale alla mano, per non sbagliare. C'è un temerino che ti porta su sia la LC che la modulazione come mic, capito? Perché è chiusa, non... Sì, si sente che stai usando un microfono diverso, anche come tonalità, però non sta spingendo, capito? No. Non so cosa dirti perché non mai intendo, però a 3 watt è verso l'azione, e 3 watt sta valando 7-8, neanche 10, figurati. Perché l'hanno toccato, lì è da mettere sotto l'analizzatore, Fabrizio, una bella allineata, una bella sistemata, per mettere veramente a posto, lui se la vuole toccare, perché lì ci hanno fogliato dentro. Sicuramente, va, perché credimi, è un bellissimo baracchino quello, una bella radio. Io l'ho avuta, ma l'ho venduta a Massimiliano, Archimede, nuova, dentro la scatola. Aveva la modifica solo di questo adattatore, provato da lui, e la modifica dei watt, ok? Dove io potevo abbassare e diminuire la potenza, e aveva portato il watt addirittura a 30 watt, ma non saturava assolutamente, una radio spettacolare. Va bene, adesso aspettiamo l'altro microfono che è il suo e poi facciamo queste prove. Chi c'è rimasto? Oh, mi ha detto c'era Giulio, l'ho chiamato e non ha ripreso. Marco sta mettendo, forse sta mangiando, non lo so. No, mi hanno detto che era satura, mi è sembrato lui. Che di saturo? Sì, un po' di saturazione ce l'avevi, comprensibile, ma c'è questa leggera saturazione sotto, quindi sicuramente ora si abbiano toccato qualcosa inerente al fatto che saturi. Poi messa sotto strumentazione, lì un bel allineamento, una bella taratura, quello che le può fare Fabri. Quindi, perché la radio è bella, è nuova, peccato. Vabbè dai, utilizzo questa, così almeno smonto le batterie da questo MC, che tanto non mai faccio niente. E niente, ho trovato anche i cavetti addirittura staccati, ti puoi immaginare, tagliati proprio a me. Sì, ma non è esatto, come si fa a fare la radio, le cose in quella maniera, guarda, io c'ho roba mia, è mia, che sono veramente custodite molto molto bene, tutta quella roba che ti ho detto, ma veramente eccezionale, custodita bene. Non si può trattare la roba così, ma quanti si fa così? Ecco, registrato. Allora, questo microfono ti posso garantire che era di Antonio. Per quanto mi riguarda non è stato mai toccato da me. Oggi l'ho aperto forse per la prima volta e ho visto il fatto. Poi, ti ripeto, le persone che l'hanno toccato qua sono in poche, quindi si possono contare con due dita di una mano, quindi va bene, dai, lasciamo perdere, chiudiamo questo argomento, non serve niente, tanto non ha una radio che già va bene qua. Solo no, ho senza batteria. Avanti, prego. Ecco. Ciao Tino, ciao Claudio, buonasera, Franco da Sorso. Avanti Claudio. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. C'è un altro break, avanti. Saluto e circolare a tutti, Daniele. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato anche a te. Vai T. Ciao Daniele e ciao Franco, tanti auguri, tante cose belle, stiamo aspettando a te a parlarci da bene, ma tu ieri non sei entrato, almeno virtualmente. Ehi, gaffa! Grazie Tino. E niente, ieri non ho potuto, dai, per altri motivi, anche buoni, motivi buoni, senz'altro. Ciao anche a Daniele, me l'ha ascoltato, se lui mi ascolta, io l'ascolto bassino, bassino, bassino. Avanti Claudio. Io invece l'abbiamo fatto ieri continuo, ti abbiamo cercato per mandarci una bottiglia di birra, un bicchiere di birra su WhatsApp, invece non ci siamo. Auguri, tantissimi auguri fra. A Kentano, come si dice, avanti Daniele, Franco non ti ascolta, cerca di fare che cosa, Daniele. Ehi Acra, mi stavo scurando il telefono, ho risposto subito. Ascolta, datemi un controllo segnale, cosa ha cambiato? Ehi, qua sì, qua è aumentato di 5, da 9 a 9, 5, 6, mezzo, tra il 5 e il 10. L'arringo ha montato, qua. Va bene, quasi 9 e 10 sì, qua. Il segnale per me è buono, però Franco non ti sente a sorso. L'avrei messo dentro il poggiolo. Lì tira non tantissimo, perché non mi fido, qua, c'è sempre quei 4 metri di palo di antenna TV da 2-2. Ma adesso vedo di prendere coraggio e sollevare, vedo cosa succede. Comunque dai, qualche miglioramento c'è stato, poi non so Franco da sorso se mi ascolta, certo Daniele, piccolino sì, comunque se non si solleva il QRM ti ascolto, dai, basso basso, a volte non capisco qualche parola, però già poco a poco ti tiro fuori, ok Daniele? Qua stai arrivando 7 come segnale, radio già è buona. Poi non so gli altri, se per Giulio è cambiato poca roba, per dire, non lo so, è da vedere un po' di cose. Guarda, sei segnale 4 e radio 1 Daniele, ma non puoi attaccare l'altro e dargli appena appena di ecco, giusto per aumentare la radio, scusa Certo sì, con questo baracchino della cicca, attacca quello modificato che c'ha più watt e le dai appena appena di ecco, giusto per aumentare la radio. Guarda un po' che ha aumentato la radio, è questo, è là, quello che ho modificato, e guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Beh, adesso si ragiona la notte, Franco. Sì, è aumentata. Cioè va a metà. Va bene, ma poi la manetta, se non mi si decide, ecco, metti il mic che è la manetta, Tino. No, vabbè, io già lo sento, non posso dargli un controllo perché ho un smitter un po' raro, però lo ascolto con un Santiago di 4, radio 5. Va bene, qua siete tutti i segnaloni furti, dai, intorno a 8, a parte Claudio che è a manetta, tutti gli altri siete intorno agli 8. E vabbè, se non vi dici qua, e loro ti danno 6, 7, 4, vuol dire che tutti vero, sei via l'Italia e sia davanti a me, è chiaro che arrivi così. Però la radio mettila al massimo, Daniele, in modo che anche se arrivi basso di segnale, però la radio è buona, e se no è troppo bassa, ragione Franco. Vai, bravo. Chiaro, vai. Sì, no, la radio è aumentata adesso, adesso l'ascolto molto meglio di prima, l'ascolto. Il segnale è sempre lo stesso, però la radio è buona, è buonina. Non è vera. Continuate il discorso che ci avevate, io ho capito cosa ci avevate perché sono entrato subito come l'ho acceso. Il discorso che ci avevamo, io ti ho fatto un adattatore per usare il 60 col presidente, però noi Biasi non spinge, evidentemente la radio ha qualcosa all'interno di chiuso, perché quella che avevo io era una canonata fa, tutto lì. Vai Tino. Sì, vabbè. Devo scrivere un messaggio, ma sto utilizzando altro e fa, quindi. Salute Nicolas. Riprendo un attimino, fra un pochino. Scusate. Ehi, va bene, io anch'io, 10 minuti e poi vado a sistema americana. E così quando arrivano loro mi sono andati a fare spesa, ho già tutto fatto. Avanti Daniele. Gala. Comunque adesso l'ho messa lì, provvisoria, cra, poi ci butto tutto e prendo un'antenna più seria, là, adesso è giusto per far funzionare anche quella là, vedere se c'era qualche cambiamento un po' sostanzioso, ne vale la pena lasciare uno o l'altro, ma ho visto che già qualcosa ha funzionato, adesso domani provo a tirare un altro 20 cm più in alto, cosa succede. Cazzo, 20 centimetri, cosa vuol dire? Ne a metri ed andando a centimetri, no? Lì è da aggiungere un altro palo come Cristiani e metterci sotto altri 2 metri e fare 2, 4, 6 e far andare in picco. Cosa fai a centimetri? Non fai niente, Daniele. Già ho capito dove l'hai messa, quindi è molto coperta, deve salire, tubi qualcosa ce l'ho io, adesso devo controllare perché ci ho portato tutto a Monteoro, adesso vediamo se domani riesco a andarci, perché stiamo finendo i lavori qua a Carbonazzi, se riesco a andarci lo porto giù e così si aggiunge, capito? Avanti, va. Oggi lì, vai. Capo. Daniele, cosa sta usando? Un'antenna di macchina? Poi me lo dici, dai, che faccio entrare a Bulldozer. Avanti, Massimiliano. Mi ascolti a me, buonasera a tutti, dai, positivo. Capo, se ti ascolto, Massimiliano, abbastanza. Avanti, Claudio. Una macchina delle varie, io devo cercare l'NB a chi mi ha risultato la Recci. Tutto a minimo qua, cosa vuoi? Allora, voglio fare, Massimiliano, perché l'altro giorno c'era Walter, mi ha dato 9,10 lì da lui, così come sono adesso, con 30, vabbè, sul palato siamo intorno ai 40 watt. Quanto ti arriva a te col magnum stai usando? Quanto è il segnale mio lì da te? 35. Infatti in bella strana, mi dico, no? Non capito perché mi ha dato il segnale così basso, non va via l'attenuatore attaccato. Questo diabolico, perché il mio segnale di da te che siete a vicini è intorno sempre al 9,20, 9,25, dipende dalla potenza chiusa, ma questa è quella reale del 4,40 chiusa normalmente, non capisco perché da lui arrivo così basso, vabbè. Daniele, lo senti almeno Massimiliano, sì? Buonasera Massimiliano, forte e chiaro, a voglia. Ciao Daniele, da 7 a 8 qua fai, là. Prima facevi 5-6, da voi è aumentato un po', là. E cosa vuoi, là? Si fa intendere che non servirà a nulla, che tu più indiosso di me, e cosa vuoi, va? Ma c'ha due pezzi di cavo, voglio buttato. Oh, ciao Massimiliano, sono piazzati io i cavi, quindi dammi il controllo a me invece, così faccio una valutazione di quanto arrivo a lui e a te. Lo stesso segnale, 25, uguale a Claudio, preciso identico. Allora fai così, dai, già è giusto. Sì, ma l'altro giorno è entrato Walter, mi ha dato 9,10 ed era 20 watt, ho messo a 50 watt e 9,15, adesso sono intermedio tra i 30 e i 40 watt e Massimiliano il segnale è quello. Mi sembra strano, c'è qualcosa che non va in quella lampada, poi c'è lui, forse il 7007 non aveva qualcosa inserito che abbassava il segnale, perché come Massimiliano queste prove le abbiamo fatte e poi lui a me mi arriva 9,20, quindi come faccio ad arrivare 9,10 a lui? Vabbè, verificheremo più avanti, allora non aggiungiamo i vapori. Avanti Franco, no, Daniele sta usando un arringo. Io vi lascio un attimo, già sono in ascolto, sono qua. E fra un po' vi lascio anch'io che devo portare a Filippo. Avanti Fra, un arringo sta usando, un quarto d'ora mi sembra che sia. Scusate, anch'io devo mollare, più tardi, ciao. Ciao, anch'io, un altro passaggio e poi mollo, dai, ci sentiamo dopo. Avanti Fra. Ehi, piazza, dai, ciao Massimiliano. Volevo dire, sì, no, ma se il tuo c'ha problemi nel conto, ti posso dare il mio a vedere se funziona, No, a quel punto, Fra, ti lascio il pacchetto e te lo provi tu, tanto alle connessioni precise, perché l'ho provato anche in un altro Lincoln, così almeno fai la valutazione. Suppongo che sia questa radio che non è spinta, Fra, perché quando l'abbiamo aperta, per carità, guarda, c'era più ossido dentro che fuori in altre parti, è voluta ripulita, ripristinata e revisionata. l'ho vista così, è stata l'occasione di vederla perché è stata la prima volta che l'abbiamo aperta noi, ma era una radio che era molto sicuramente abbandonata in un locale umido, capito? Sì, perché se il chiavetto funziona in quella radio, anche se esce male, se è colpa della radio, magari il chiavetto non c'ha niente, è solo colpa della radio. Infatti da tutti vedevi il chiavetto, ti davo il mio, ti prestavo il mio e vedevi la differenza. No, non c'è problema, ti do il chiavetto, te lo provi con calma, io poi tanto aspetto l'altro microfono, nel frattempo la apro e vedo di pulirla la bene meglio, così se vuoi ti puoi copiare le connessioni e non ci sono problemi, capito? Questo io l'ho trovato il chiavetto perché ho dovuto sacrificare purtroppo il microfono del presidente, quello suo originale, capito? Non ne ho trovato in vendita, ho dovuto per forza sacrificare quel cavetto lì, quindi non ne ho, sono volentieri fra. Ehi capo, sì, ho capito. Va bene, dai, non è un problema, lo proviamo tanto per sapere se funziona. Infatti, prima di spendere soldi anche tu lo provi, se va bene lo compri, se no recuperi il cavetto da Autopoli e lo si può fare, capito? Però se funziona bene, se funziona male tanto male prenderti questo appento di mattonarti la testa, di saldare e quant'altro. Per me non c'è problema, io disponibilissimo, te lo presto e senza problemi. Ok, dai, un momento, ci mettiamo d'accordo, vengo e lo prendo, non è un problema. Guarda, se lo vuoi domani, io domani me lo metto in macchina e ci troviamo e niente, se no dopo domani sono al campo della Teoci, ma è giusto per, come vuoi tu, dai, non, fammi una massa, se c'è il numero di telefono mio. Non ce l'ho, al limite me lo passa Claudio, dai. Va bene, non c'è problema, ti devo lasciare, mi devo lontanare dalla radio. Comunque fammi sapere, poi se per noi io me lo lascio in macchina. Ok, dai, va bene. Poi ti chiamo domani. E al limite ci incontriamo dove capita e vengo me lo prendo. Ok, ciao Tino, buon proseguo, buon tutto. E grazie. Figurati, ciao, a più tardi. Ciao T, ci aggiorniamo dopo se coincide. Sì, fra, adesso porto il cane e poi ti mando il numero di Tino. Dai, io vi lascio, devo uscire. Riprendi con Daniele a dopo, ciao a tutti. Caffa, dai, a Daniele a volte lo ascolta, a volte no, probabilmente perché mi sta sollevando un pochettino, leggermente al QRM, mi sta sollevando. Dai, vi saluto anche io, dai che me ne vado anche io a mangiare allora. Ci sentiamo, scusa Daniele, ci sentiamo più tardi, dai magari se ci siete. Ciao Claudio, ciao Tino, a dopo, dai. Verso le 9, se ci siete, rientro. Ciao Cla, ci sentiamo dopo, dai, ciao T, ci sentiamo dopo. Chi è, avanti? Chi è? Hola, sto uscendo? Adesso sì, ma non so chi sei. Chi sei, Daniele? Ma che sei, Gianni? No, negativo, Daniele. Provando una nuova radio. Non riesco a riconoscere la voce. Bene, va così. Adesso ho capito chi sei. Stavo provando un altro microfono, ma sembra che inizi quando schiaccio la portante. Aspetta un secondo che tolgo questo cavolo di modifica, aspetta. Sì, io sono qua, sono al PC, sto facendo ascolto, non c'è problema. Ecco fatto, sono tornato normale. Sì, già va bene. Come antenna, come siamo messi? Ancora maluccio, dai, ho migliorato perché sto usando una Ringo. Te l'ho tutta risistemata. Mannaggia, come si dice? devo fare alcuni accorgimenti provvisori, che poi quando ho modo prendo quella della Midland, l'Energy, la 5 ottavi. Ok, tutto dai. Attrizzati. Vabbè, io qua come radio ti ascolto bene, ho già detto. Sei basso il segnale, però la radio già c'è, è presente. Guarda, per le condizioni in cui sono adesso non mi posso lamentare, perché se tu la vedi ti metti le mani nei capelli come piazzata. Non tanto la struttura, palo e staffe, ma per come sta andando l'antenna. E va bene, cerchiamo di sistemare anche questo, dai. Va bene, va bene. Va bene, adesso vado, mangio una cosa veloce, veloce, e poi mi sdraio anche io, sono umano e critica. Va bene, dai, ci si riascolta, a domani, se coincide. Cava, salve impegni, già ci sono, dai. Va bene, anche adesso qua chiudo tutto e ci ascoltiamo domani. Buon proseguimento, buon inizio di giornata. Ciao. Ehi, ciao.